La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, puntata di Ferragosto, un Ferragosto che sta finendo o che è già finito perché ci ascolta in replica di domenica, un Ferragosto nel quale sono arrivati nei cinema italiani due nuovi film e dalla settimana prossima il materiale diventerà un po' più copioso. Parleremo di questo proprio in questa puntata, dei due film nuovi, Alieni in soffitta e Sex Movie in 4D, ma continueremo anche il nostro viaggio sui set del cinema italiano, dei film che vedremo nella prossima stagione. Oggi andremo a curiosare sul set del film Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Avremo un altro approfondimento sul Festival di Locarno che si chiude proprio in queste ore con due film italiani abbastanza particolari che hanno fatto parlare di sé e poi ancora continueremo la nostra cavalcata nella hit parade dei 100 film più visti nella stagione che si è appena conclusa. E infine non mancheranno le novità dal cinema americano con la nostra rubrica Trailer USA e tutte le novità in DVD con Claudio Pofi. Questo è il menù della puntata della Rosa Purpurea. Cominciamo subito con il parlare del primo dei film in uscita in questo weekend, un vero e proprio family movie, si intitola Alieni in soffitta. Ecco la piscina, ciao! La famiglia Pearson era finalmente in vacanza. Ma c'era un piccolo problema. Qualcuno era arrivato prima. Non ce la faccio! Sì, qualcuno era già nella casa di villeggiatura dei Pearson. Era Scintilla, un piccolo alieno a quattro braccia che dopo il primo traumatico incontro con Anna, la minore dei fratelli Pearson e anche la più aperta alle nuove amicizie, era stato raggiunto nella soffitta di casa da altri tre suoi compagni di invasione dai propositi meno concilianti. Da dove sono venuti? Sono venuti dal piano di sopra. Salve, umani. Veniamo in pezzi. Pace. Attacchiamo questi umani! Gli alieni hanno un piano, sono giunti sulla Terra dal loro pianeta lontano perché proprio sotto la casa dei Pearson c'è qualcosa lasciato dai loro avi, tanti anni prima. Qualcosa su cui edificare una nuova civiltà, ma su cui nel frattempo è stata edificata proprio la casa dei Pearson. Per neutralizzare gli umani, gli alieni sparano loro nella nuca un microchip che gli permette poi di controllare la loro mente e guidarla a distanza con un joypad, uno di quegli aggeggi con cui si comandano i videogame. Ma siccome i giovani Pearson sono proprio dei maghi dei videogiochi, il film si trasforma in una grande sfida all'ultimo click. L'intera flotta sta per invaderci. Ragazzi, armatevi. Scoprimi. Con un rastrello? Quelle cose che ci hanno sparato addosso controllano la mente. Proclamiamo il vostro pianeta nostra proprietà. Fine del gioco. Educato e politicamente correttissimo, Alieni in soffitta non si allontana troppo dagli stereotipi della commedia americana per famiglie, un'America middle class che va in vacanza sul lago, il barbecue con hamburger e hot dog, l'adolescente troppo bravo a scuola che si è stufato di passare per il secchione di turno, i problemi fra genitori e figli. Tutto abbozzato, un po' superficiale, con tanto di ovvia redenzione finale. Quel che funziona meglio è l'utilizzo dei saperi tecnologici dei ragazzi, per una volta non demonizzati, ma messi proprio al servizio di una storia sulla tolleranza fra alieni e umani e non solo. L'idea delle persone ridotte a marionette telematiche controllate con un joystick è la cosa migliore del film. Regge anche l'idea di concentrare tutta l'azione in un luogo circoscritto come la soffitta, il che ricorda un po' l'approccio di un film per esempio come Mamma ho perso l'aereo. Da segnalare la presenza di Ashley Tisdale, famosissima fra i teenager per il ruolo di Sharpay in High School Musical. E questo per quel che concerne Alieni in soffitta. Noi diamo un'occhiata alla classifica dello scorso fine settimana, prima di passare a parlare di Sex Movie in 4D, perché è una classifica che forse per la prima volta da almeno un mesetto a questa parte potrebbe essere cambiata, potrebbe essere stravolta dalle nuove uscite. Non è successo appunto da settimane nelle quali al primo posto troviamo Harry Potter e il Principe Mezzosangue, che ormai ha superato i 17 milioni di euro di incasso, al secondo Una notte da leoni, al terzo un'altra commedia come La rivolta delle ex, al quarto Transformer, al quinto Outlander. Sono tutti film che sono nelle sale da parecchie settimane. Forse Alieni in soffitta e Sex Movie in 4D potrebbero inserirsi finalmente nella top 10, direi sicuramente nella top 5 probabilmente di questo fine settimana di Ferragosto. E allora andiamo a scoprirlo, questo Sex Movie in 4D. Hai 18 anni e non hai mai avuto una ragazza. Ce l'ho una ragazza. Dove l'hai beccata? Su internet. Ma quella ci avrà un tronco davanti. In questo breve dialogo fra Ian e Rex c'è il succo dei personaggi di questo film. Ian è un 18enne timido, gentile, sensibile, un loser per la cultura imperante e soprattutto vergine, il che per il rozzo e violento fratello Rex, come avete sentito, è un'onta insopportabile. Vessato quindi da una parte dal fratello maggiore, umiliato da quello minore, gran successo con le ragazzine, Ian ha deciso di perdere la verginità con Miss Piaciosa, terribile traduzione dell'originale Miss Testi, biondina mozzafiato conosciuta su internet. Conosciuta con un escamotage, Ian ha messo in rete una sua foto ampiamente ritoccata, soprattutto nei volumi dei suoi muscoli. Ian mette al corrente del progetto il suo amico di sempre, Lance, cicciottello, ma terribilmente cool con le ragazze. Lei è la ragazza di internet? Ma non vuole me, ok? Vuole lui. Sei il mio fratellino. Chiedi e ti sarà dato. Posso usare la judge? Ovviamente Rex non presterà la sua splendida judge rossa fiammante del 69 al fratellino imbranato. E allora Ian e Lance gliela rubano e partono attraverso le pianure d'America, alla volta del Tennessee, in un viaggio iniziatico cui si aggrega non molto gradita, almeno all'inizio, la bella Felicia, l'amica di sempre, di cui Ian è segretamente innamorato ma alla quale non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Il film si trasforma così in un road movie nel quale i tre ragazzi vivranno svariate disavventure, rimarranno appiedati, troveranno accoglienza in una comunità di Amish piuttosto libertini e alla fine arriveranno alla meta molto cambiati. Ciao! Nella foto hai tutto più grasso. Sì, mi sono dimagrito una cifra, ho avuto la cacarella, l'influenza. È una bella sorpresa di mezz'estate questo sex movie in 4D, titolo originale Sex Drive, più o meno impulso sessuale, che gioca sul doppio significato della parola drive, ovvero guidare. Sotto un'apparenza estetica rubata alle parodie tipo Scary Movie e American Pie, si cela una commedia generazionale e anche un po' sentimentale sull'amore che i ragazzi vogliono darsi ma non sanno dirsi, sul tabù della perdita della verginità in una società dai comportamenti omologati come la nostra. Il tutto ovviamente molto molto divertente, anche grazie a un linguaggio che, per quanto sboccato e giovanilista, non supera mai il limite della sostenibilità. Due note sugli attori. Il protagonista è Josh Zuckerman, che forse ricorderete nei panni dello studente del professor Robert Redford in Leoni per Agnelli. L'amico Lance è Clark Duke, all'esordio cinematografico. Farà parlare di sé. Metti la testa sulle mani! Signore, glielo dica, pupazzo, io non ci capisco! Ah! Oh, oh. Ah! Ah! Il pupa messicano fa resistenza! Sparate! E linea ora alla regia, fra poco torniamo qui alla Rosa Purpurea e andiamo a visitare il set del nuovo film di Pupi Avati, Il figlio più piccolo. Sarà con noi anche il protagonista, Christian De Sica. Seconda parte della Rosa Purpurea che si apre con lo spazio che stiamo dedicando durante questo mese di agosto ai set dei nuovi film italiani. Ogni settimana andiamo a curiosare un po' su un film di quelli che verranno, che arriveranno nella prossima stagione, partendo proprio dall'incontro sui set dei film attualmente in preparazione. Cinema italiano quindi, un grande nome come quello di Pupi Avati, un film che si intitola Il figlio più piccolo ed uscirà nel febbraio del 2010. Abbiamo però incontrato sul set Pupi Avati e il cast del film, l'ha fatto per noi il nostro Boris Sollazzo. È un film che racconta un pezzo dell'attualità recente del nostro paese e soprattutto è un film importante in un certo senso, perché segna una sorta di debutto, anche se ha un'età assolutamente e ha un'esperienza assolutamente importante, quello di Christian De Sica come attore drammatico. È un'opportunità che a Pupi Avati è già riuscita. Ricordate quando Il regalo di Natale diede la prima opportunità drammatica a Diego Abatantuono? Ebbene, Diego Abatantuono è poi diventato un attore con quel tipo di registro, anche se ha continuato a fare anche commedie. Ecco, Christian De Sica, l'amatissimo attore di tanti cinepanettoni, prova il suo lato drammatico ed essendo un attore preparato, siamo convinti che la riuscita sarà buona, anche perché Pupi Avati è un autore, è un regista che sa come dirigere gli attori e come tirare fuori il meglio da loro. De Sica interpreta un immobiliarista romano in crisi dopo aver perso tantissimi soldi nel tracollo della sua holding, e il suo commercialista, che invece è Luca Zingaretti, gli consiglia di intestare la società al figlio che vive a Bologna. E qui c'è il passaggio generazionale, forse anche, ci aspettiamo, il passaggio fra due Italie che si parlano per vedere se hanno punti in contatto, probabilmente ne hanno pochi. E allora noi ricordiamo che nel cast ci sono anche altri attori importanti, per esempio Laura Morante, e abbiamo sentito Pupi Avati, Boris Sollazzo lo ha intervistato, appunto, dicevamo, sul film che è incentrato sulla figura di questo personaggio interpretato da Christian De Sica. Lo potremmo definire un furbetto del quartierino, Pupi Avati? Lo è moltissimo, è un furbetto del quartierino, ci sono molti episodi naturalmente che in qualche modo si ispirano a dei personaggi che sono assurdi alla cronaca, alle prime pagine di giornale, beh, evidente. D'altra parte la figura immobiliarista stranamente poi a Roma ha trovato la possibilità, non si fa solo il cinema a Roma, si fanno anche le finanze virtuali, si fanno anche tante altre cose che attengono sempre tutta la fantasia, la creatività. Questo è un film generosissimo, buonissimo, dove alla fine del film vi renderete conto di come io sia invece ancora l'assertore di quanto il candore, l'ingenuità, l'innocenza premino nella vita. Essere furbi non paga. Dico, questo figlio più piccolo, lei è forse l'unico in Italia che punta sui giovani, tanto ad andarli a prendere quando ancora non hanno esperienza. Sì, sono stato soccorso da un miracolo, l'ho detto, a 2 giorni dall'inizio della ripresa, un vero protagonista fa sì che tu non dormi la notte, e aver incontrato Nicola Nocella veramente è stato un incontro in cui qualcuno dall'alto ci ha messo una mano, una pezza. E allora andiamo a sentirlo, Christian De Sica. Dicevamo, primo ruolo drammatico, un'esperienza sicuramente diversa. Come interagirà con i suoi film di Natale? Quale equilibrio la sua carriera prenderà dopo questa partecipazione? Christian De Sica. Io devo dire che ogni volta che ho fatto delle esperienze totalmente diverse, tipo scrivere un libro, fare del teatro musicale, o fare ad esempio anche Lo Zio d'America, dove facevo un personaggio che amava le donne, non cattivo, non figlio di puttana, ma buona, mi ha portato il pubblico femminile, mi ha fatto... E i miei film di Natale poi piano piano hanno avuto ancora più successo, perché queste altre cose mi hanno, non dico ripulito, ma però hanno aggiunto un qualche cosa proprio dentro di me, alla mia carriera, al mio mestiere. Questo è un mestiere che si impara anche alla mia età, 58 anni. Si impara e non si finisce mai di imparare. Ecco che quando io dico quello seguiva noi che eravamo i grandi attori e lui era il ragazzino, invece non è vero, io seguivo lui, perché io c'avevo da imparare tanto da lui. Ecco, capisci com'è? Non si finisce mai di studiare. Quando è scritto il personaggio è scritto preciso, non c'è bisogno di andare a fare troppe cose. Io mi ricordo che mio padre mi diceva sempre, non pensare a quello, cioè, non cercare di dire la battuta, adesso vedrete come la dico, prendo la risata o faccio piangere. Ascolta bene e guarda negli occhi bene chi ti sta davanti, chi sia bravo sia cane. Se tu ascolti bene quello che ti dice l'attore che ti sta davanti, vedrai che le battute ti riescono ancora meglio. È molto semplice, è come andare in automobile, io credo, fare questo mestiere. E poi c'è chi c'è più portato e chi meno portato. Tornando al film, si è ispirato a qualcuno di reale per questo personaggio cialtrone, un po' furbetto del quartiere? No, non mi sono ispirato a nessuno, anche perché tanto tempo fa, quando ho fatto un film come regista che si chiamava Simpatici e Antipatici, mi ero ispirato a un palazzinaro romano, che è stato interpretato da Funari, ma quando l'ho vestito Funari con gli occhiali sembrava Brevidi, si sono incazzati tutti. Io dicevo, ma non è Brevidi, è un palazzinaro amico mio. Sull'ultima cosa, è vero che Avati ha questo tocco magico, insomma, adesso che l'ha provato anche lei? Guarda, Pupi Avati è veramente genio e regolatezza, perché è disponibilissimo e snobbissimo, buonissimo e cattivissimo. Simpatico e antipatico, colto e ignorantone, è una cosa, però c'è una gran cosa, è un grande maestro di recitazione, fateci caso, è un suo vezzo, perché prendere la Cata Ricciarelli che è una cantante lirica o me che faccio i film di Natale, perché lui è molto bravo, un po' come mio padre, nel tirar fuori il meglio da un attore. Riusciva a Visconti, che ho conosciuto, che era uguale a mio padre, e il terzo forse è Pupi Avati, perché oggi, ad esempio, io ho fatto un film con Roberto Rossellini, che era un genio, ma non ti diceva niente, a me mi diceva, quando ho fatto il film con Rossellini, dice, guarda, vai da qua a qua e fa un po' di meno, non fa come tuo padre, questo è il massimo che ti poteva dire, e questo è quello che ti dicono i registi. Christian De Sica quindi per la seconda volta con Pupi Avati, in realtà, perché aveva fatto un piccolo ruolo quando era giovanissimo negli anni 70 in un film di rottura del primo Pupi Avati che si intitolava Bordella. Luca Zingaretti invece è un altro di questi furbetti che abbiamo così denominato prendendo lo spunto dalla cronaca, il commercialista appunto di De Sica, colui che gli consiglierà di intestare tutto al figlio più piccolo. Siamo un gruppo di imprenditori d'assalto che cercano in tutti i modi di fare soldi eludendo le regole che ci dovrebbero essere in una società che si dice capitalistica. Per fortuna alla fine vengono in qualche modo fermati, bloccati, ma insomma è un po' una parabola. Senti, hai parlato di che quasi ne facevi una malattia del fatto di non essere scelto da Avati. È possibile che ci sia solo Avati che proponga ruoli diversi nel cinema italiano? Direi quasi di sì, anzi trovo che c'è molto conformismo in questo in Italia. Un attore fa una cosa, gli propongono sempre quello, un attore va di moda, un'attrice va di moda, per 2 o 3 anni va solo quello, cioè non c'è il divertimento o comunque la voglia di andare dietro a vedere che cosa un attore potrebbe essere in grado di fare. Forse una volta c'era un po' più di spregiudicatezza, adesso col fatto che ci stanno meno soldi un regista, ahimè, arriva a fare un film dopo averci lavorato 4 anni, capisci bene che non sono tutti come Avati. Pupi fa un film, 2 film all'anno, ma ti assicuro che oggi come oggi per i registi giovani montare un film è una cosa di una durezza inaudita, quindi è ovvio che si guarda intorno e almeno da un punto di vista attoriale vuole essere assicurato. Architetto, se tu sei così bravo, diciamo geniale, di portarmi un progetto credibile per portare il sole a Viganella d'inverno, io come sindaco, come amministratore, vado fino in fondo. Le parole che avete sentito le ha pronunciate il sindaco di Viganella, Franco Midali, che è uno dei più giovani abitanti, nonostante sia più che quarantenne, di questo paesino, appunto Viganella, un paesino del Verbano, destinato in un certo senso a scomparire perché la popolazione si era sempre più invecchiata, i giovani andavano via. È una, diciamo così, una condizione, una situazione, un destino forse condiviso da tante comunità montane. Perché vi parliamo di questo? Perché questa storia, la storia della rivalsa di questo borgo, è diventata un film. È diventato un film che è passato in questi giorni al Festival di Locarno, un documentario che ha colto davvero un grande successo nella Festival Ticinese. Così vogliamo parlarvi anche di Locarno, che chiude i battenti proprio durante questo fine settimana. Abbiamo scelto un paio di film italiani un po' alternativi per raccontarvi nello spirito appunto locarnese questo festival. Dicevamo quindi Viganella nel Verbano, ormai abitato solo da vecchi che conoscono anche il lato duro della montagna. L'area del fieno, mandarlo a casa, è tutto un lavoro non tanto bello, faticoso, fatica. La montagna è bella se si va a divertire, ma se per lavorare la montagna è dura. Ed è ancora più dura se per 4 mesi all'anno in questo borgo non batte il sole, cosa che succede a Viganella. Le montagne di fronte di fatto impediscono alla luce solare di arrivare sul paese per parecchi mesi. E allora questo sindaco cerca di reagire, si inventa qualcosa, mettere uno specchio sulla montagna di fronte dall'altra parte della valle, uno specchio che rifletta il sole sul centro di Viganella, che crei in questo senso un sole artificiale, una sfida che risponde a una precisa filosofia. Con il sole oggi si può e si deve giocare, si può e si deve cercare il modo di sfruttare la sua energia per qualsiasi aspetto della vita umana tu voglia prendere in considerazione. Quindi non solo il pannello fotovoltaico per produrre energia, ma anche gli aspetti, diciamo così, socializzanti, gli aspetti turistici che possono derivare da catturare un raggio di sole. Questo è quindi Lo Specchio, film documentario passato a Locarno, firmato da David Christensen, ma totalmente italiano per quanto riguarda la produzione. A Locarno è arrivato un altro film anche intitolato Grandi Speranze, un titolo dickensiano che però sottintende alla categoria, alla generazione di giovani imprenditori di oggi. Grandi Speranze è un film firmato da Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, che hanno un po' spiato i movimenti di tre giovani manager per coglierne le potenzialità, gli auspici, i sogni magari, e anche un po' la realtà nella quale si muovono, i problemi creati dalla filosofia e dalla cultura imperante. E allora noi andiamo a sentire i due registi, Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Circa 2 anni fa abbiamo conosciuto un giovane iscritto all'associazione di Confindustria Giovani. Ci siamo subito resi conto che i giovani imprenditori in Italia non erano mai stati raccontati, infatti a nostra memoria non esiste un documentario sui giovani imprenditori italiani. E quindi questa cosa ci ha colpito e ci era piaciuta moltissimo l'idea di entrare in contatto con persone grosso modo della nostra generazione, insomma persone tra i 30 e i 40 anni, che però hanno scelto un percorso molto diverso dal nostro. Lavoriamo comunque sulla commedia umana, insomma ci interessa portare nel cinema documentario perché crediamo che così insomma ci sia un taglio nettamente più cinematografico. Il nostro è un documentario di narrazione dove non ci sono interviste, abbiamo filmato gli imprenditori non nella loro intimità ma nel loro ruolo di leader, insomma durante le loro riunioni, i loro viaggi, tutti legati al lavoro, insomma. Questo viaggio ci ha portato dall'Italia alla Cina e lì film arriva a Shanghai e lì finisce, insomma. A te voglio chiedere, Martina, alla fine di questo giro, di questo film, una volta che il materiale era sotto i vostri occhi, queste grandi speranze del titolo per questa giovane classe dirigente sono ben riposte? Non so se siano ben riposte le persone che abbiamo scelto noi, però le grandi speranze sono anche un po' le nostre, cioè dell'ironia ma c'è anche dell'autoironia in questo titolo. Il film è un percorso che va dalla formazione alla riuscita, passando attraverso un tentativo un po' fallimentare. Il ritratto che ne viene è un ritratto, alcuni hanno detto sconsolante, altri hanno detto insomma sì, infelice, per cui le grandi speranze sono ironiche. E chiudiamo qui la seconda parte della Rosa Purpura, fra poco di nuovo insieme per un altro pezzo della Top 100, i 100 film più visti nella stagione che si è appena conclusa. Oggi andremo dalla 75esima posizione alla 51esima, fra poco. La Rosa Purpurea. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Le note che sentite sono quelle che ha scritto, che ha composto Bruce Springsteen per la canzone originale del film The Wrestler, il film che ha trionfato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2008. Da qui vogliamo partire in questa terza parte della Rosa Purpurea perché siamo ad attaccare una seconda tranche della classifica dei film più visti durante la stagione che si è appena conclusa. Abbiamo cominciato la scorsa settimana andando dal 100° al 76° posto. Per 4 settimane vi racconteremo la hit parade dei film più visti appunto in Italia. Oggi cominciamo dal 75° posto e ci avviciniamo verso il 50°. E al 75° posto appunto, ecco il motivo della canzone che sentite, troviamo The Wrestler, Leone d'Oro a Venezia, dicevamo, un film che ha spaccato il cuore agli spettatori un po' di tutte le età, questa storia di questo vecchio wrestler degli anni 80, Randy The Ram Robinson, e del suo declino umano e professionale, ma anche della sua rivincita, della sua immensa voglia di riscatto. Un grande Mickey Rourke. Allora ascoltiamo un passaggio audio del film e poi proprio Mickey Rourke raccontarci il suo approccio a questo personaggio. Round and round! Sì, vai! Cazzo, non ne fanno più di canzoni così. 15 anni 80, imbattibili. Ci puoi giurare, i Guns N' Roses sono i più forti. I Crew. Sì. Def Leppard. Poi Cobain, quel Finocchio, è arrivato a rovinare tutto, fine. Volevamo divertirci, che c'è di male? L'ho odiata quella merda degli anni 90. Facevano schifo. I 90 facevano schifo. I'm not really a wrestling fan. A dire il vero, non sono propriamente un fan del wrestling. Anzi, all'inizio avevo davvero poco rispetto per questo sport, anche perché il mio background è nella box, lo consideravo più che altro uno spettacolo. Almeno fino a quando Daven mi ha spedito in una palestra di wrestling per 2 mesi mi ha fatto spaccare la schiena. E così piano piano ho cominciato a rispettare questi ragazzi. Anche se molto coreografico e sicuramente anche una forma di intrattenimento, quando qualcuno di 120 kg ti sbatacchia da una parte all'altra della stanza ti fa male davvero. Across the room, you get hurt. 74esimo posto per Duplicity, il film che racconta la storia di due spie industriali che sono anche due ex amanti che si ritrovano ad essere rivali, pericolosi rivali sul lavoro. Dovrei conoscerla. Se dovresti conoscermi. Quello in cui sono forte e sono da lode è che mi ricordo le persone con cui vado a letto. È un tradizionale punto di forza per me. Senta, sul serio, non so per chi mi abbia scambiata, ma... Mi rimorchi, mi seduci, poi mi droghi e saccheggi la mia camera d'albergo. E sai la follia qual è? L'ultimo ricordo prima di perdere i sensi è che mi piacevi tanto. C'è una graphic novel di Will Eisner alle spalle di uno dei film più attesi e forse meno riusciti di questa stagione, The Spirit, un ex poliziotto che ritorna misteriosamente dalla morte nelle sembianze di questo combattente contro il crimine. La mia città urla. È mia madre. È la mia amante. E io sono il suo spirito. 72esimo posto per Solo un padre, film italiano, il film della consacrazione di Luca Argentero nei panni di un giovane papà, un ragazzo padre in un certo senso, rimane vedovo proprio con la morte della moglie al parto e se la deve cavare con questa piccola bambina e con un nuovo amore. Perché non scegli mai niente? Ancora, basta. Lascia sempre che siano gli altri a scegliere per te, Carlo. I tuoi genitori, i tuoi amici, io. Al 71esimo posto invece una delle sorprese positive di quest'anno, il nuovo capitolo della saga di Star Trek, una sorta di prequel che ci racconta un po' come è nato il mito dell'Enterprise ed è uno dei film che hanno maggiormente divertito ed entusiasmato il pubblico dei numerosi fan di questa saga. Non volevo crederci quando il barista mi ha detto chi eri. Perché parli con me, amico? Tuo padre ha comandato la nave stellare per 12 minuti. Ha salvato 800 vite, tra cui la tua. Ti sfido a fare di meglio. Arruolati nella flotta stellare. 70esimo posto per Disaster Movie, comicità demenziale, mentre un film per ragazzi Disney, fra virgolette, al 69esimo, Anna Montana diventa un personaggio ambivalente, Miley Cyrus di giorno, una ragazza normale, una rockstar invece di sera. Così tu e Miley siete molto unite. Non immagini quanto. Oh, scusa. Non rispondere se credi che sia troppo personale, ma... Lei uscirebbe con me se la invitassi. Tu vuoi uscire con Miley? Oh no, tu sei bellissima, non fraintendermi, ma... Miley... Sono felice quando è vicina a me. Un bel pezzo di cinema e di storia anche del giornalismo con State of Play al 68esimo posto, Russell Crowe protagonista nei panni di un giornalista vecchia maniera che non si trova benissimo con il nuovo che avanza. Mi sta togliendo l'articolo. No, non te lo tolgo, ti sposto e basta. Non permetterglielo. E Cal, se te ne occupi tu, voglio che sia tutto regolare dall'inizio alla fine. Dille che se lo scordi, il servizio è tuo. Ce l'hai tu, alza subito la voce. Scusa, prendi le sue parti adesso. È perfetta, posso lavorare con lei. Ma Cal, lei è inesperta. L'inesperienza non è l'età. Io non lo voglio l'articolo, io... E questa è la battaglia fra il giovane cronista e il vecchio Russell Crowe. 67esimo posto per quello che è diventato un nuovo classico dell'horror come Saw. Siamo al quinto capitolo, ascoltiamo la clip. Uno di noi deve morire. No, ha detto di non seguire il nostro istinto. Non dobbiamo prendere la chiave. Ma sei stupida! Come facciamo a salvarci se non prendiamo le chiavi? Storie immaginarie, personaggi che rivivono dalle pagine di un libro o vengono in esso risucchiate. Ink Art al 66esimo posto. Adesso dormi, tesoro. Dormi. Potrei provare a leggerle qualcosa. Ma è troppo piccola. No, perché? C'era una volta una bella bimbetta molto dolce. Solo a vederla le volevano tutti bene. Sua nonna specialmente, che le regalava qualunque cosa. E un giorno le regalò... un cappuccetto di un bel velluto rosso. Che cos'era? 65esimo posto per Un matrimonio all'inglese, un testo teatrale di Noel Coward, un apologo sulla lotta di classe e le differenze tra America e vecchia Inghilterra. Balena in vista. Ammira il cottage di campagna. Oh, signore, è enorme. Sì, ho mentito sui recinti di pan di zenzero e sui nanetti obesi. È difficile nuotare nel fossato? Tutto fumo e niente arrosto, tesoro. Tutto fumo e niente arrosto. È stato uno dei film che hanno fatto la storia degli Oscar di quest'anno, che hanno maggiormente impressionato. Milk di Gus Van Sant, con un grande Sean Penn nei panni di questo personaggio paladino dei diritti degli omosessuali. Sentiamo un passaggio del film e poi Sean Penn descrivere la figura di Harvey Milk. Allora, la prima proposta a uscire da questo ufficio sarà un'ordinanza per i diritti dei gay identica a quella che Anita Bryant ha fatto abrogare nella contea di Dade. Che ne pensi, fior di loto? Una buona cosa. Niente da dire. Un uomo che aveva grande coscienza e conoscenza della politica e della comunità, un uomo che è diventato un simbolo di speranza per tantissima gente, un personaggio intenso da interpretare e di grande valore, un caso che tutti dovrebbero conoscere. Procediamo con The Reader, un altro film della notte degli Oscar. Questa volta la coppia è Kate Winslet e Ralph Fiennes, una storia molto interessante ambientata nella Germania del dopoguerra, dove un quindicenne viene sedotto da una donna molto più matura di lui, che gli chiede solo una cosa: leggere per lei. Non mi parli mai di quello che studi. Stiamo studiando un'opera teatrale, puoi leggerla se vuoi. Preferisco ascoltarla da te. Narrami di quell'uomo, musa, di quell'uomo dal multiforme ingegno che tanto tempo vagò. Siamo al 62esimo posto, Babylon AD, uno dei rari film di fantascienza degli ultimi tempi, con una missione impossibile da compiere. Il genere umano non merita di essere salvato. Per tutti loro io sono solo un mercenario, uno scarto della società. Mi hanno dato la caccia per anni. Devi fare una consegna. Che tipo di carico? Una ragazza deve arrivare a New York tra 6 giorni. Andiamo ancora al cinema italiano, Questione di cuore al 61esimo posto, con Antonio Albanese, Kim Rossi e Stewart, due uomini molto diversi tra di loro che diventano amici in sala di rianimazione. Ascoltiamo la clip e poi una dichiarazione di Kim Rossi Stewart. Venga, ho un infarto. Chi te l'ha diagnosticato? Io, tesoro. Magari un po' d'ansia, comunque c'è stata fa una fila. Roma, ho l'infarto, devo fare la fila. Ho l'ansia. Ho cercato di esplorare e di tirare fuori tutto quello che era possibile nella direzione della commedia dal testo, per cui questo coinvolge sia la, diciamo, la caratterizzazione del personaggio, sia, direi, forse la cosa più importante, proprio il discorso ritmico, cioè dei tempi, quindi della partitura musicale che comporta, insomma, affrontare un dialogo. Ha commosso il pubblico di tutto il mondo l'amicizia fra il figlio di un ufficiale nazista e un ragazzino ebreo, il bambino col pigiama a righe. Ciao! Quanti anni hai? 8. Anch'io 8. Perché stai sempre in pigiama? I soldati ci hanno preso tutti i vestiti. Mio padre è un soldato, ma non di quelli che prendono i vestiti alle persone. Al 59esimo posto troviamo Zohan, Adam Sandler nei panni di un agente israeliano del Mossad che si improvvisa parrucchiere newyorkese. Al 58esimo una commedia, La verità è che non gli piaci abbastanza, con una generazione di attori che ha fatto le fortune anche di una serie di telefilm come Jennifer Aniston, Ben Affleck, Drew Barrymore. Mi piacerebbe chiamarti qualche volta, hai un biglietto? Ma certo. Perfetto, ci sentiamo presto, Susie. No, aspetta, devo richiamarti io o mi fai tu una telefonata? Te l'ho già detto. Dai, ci sentiamo. Oh, ups! L'hai fatto di nuovo, molto vago. Sai che ti dico? Facciamo che sei tu a chiamarmi, così saltiamo tutte le stupidaggini. Ci sentiamo, Susie. Era carino. Sì, ma non cominciare col cyberpedinamento. Al 57esimo posto troviamo un altro graphic novel. È stato un po' l'anno di queste forme di fumetto d'autore portate al cinema. Watchmen di Zack Snyder. Al 56esimo il cinecocomero targato Carlo Vanzina, Un'estate ai Caraibi. Sei lui, il bambino. Il bambino? È il puteo, insomma. È Veneto? Lui? No, V. A me? No, mi sono di Mexico. 55esimo posto ancora per il cinema italiano, Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, che ritrova alcuni dei suoi attori feticcio, Diego Patantuono, Gianni Cavina, la Bologna degli anni 50 vista con gli occhi di un ragazzo di 18 anni. Non può fare così, lo sai che ti vogliamo bene. Allora non chiamatemi più Vater. Non lo chiamiamo più Vater, giurate? Allora tre Campari, Vaterino. C'è un altro film italiano al 54esimo posto, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek, che rilegge il romanzo di Melania Mazzucco. Al 53esimo posto, campione d'incassi in Francia, Giù al nord di Danny Bon, un uomo che viene trasferito nel profondo nord transalpino. Lei è disabile da quanto tempo, signor Abrams? Ero molto piccolo, è sfocato. Rivivere quel trauma terribile. Mi scusi, sono spasmi muscolari, scusa. So, spesso ho a che fare con dichiarazioni false per ottenere dei posti ambiti. Oh. Non voglio disturbarla più a lungo. Ma non mi disturba affatto, arrivederla signor Levick. 52esimo posto per Diverso da chi, Luca Argentero e Claudia Gerini protagonisti, lei nei panni di una morigerata politica di centro, lui nei panni di un politico gay dichiarato. Ma cosa vuoi che pensi? Che me ne frega? Sono gay, Adele. Ma io no, io no. Perché non ammetti di essere diverso? Io? Diverso da chi? E al 51esimo posto troviamo infine la trasposizione cinematografica di un libro che è stato un grande bestseller, Stieg Larsson con il suo Uomini che odiano le donne. È da 39 anni che ricevo un fiore incorniciato per il mio compleanno. Chi pensa che sia a mandarglielo? Chi ha ucciso Harriet? È un sadico porco che odia le donne. La classifica dei 100 film più visti dell'anno prosegue la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea con le posizioni dal 50 al 26. Ed eccoci ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpurea e il nostro rush finale come sempre si apre con il nostro appuntamento settimanale con Trailer USA, la nostra vetrina sulle anteprime cinematografiche americane. Vi facciamo sentire in anticipo i suoni originali dei nuovi film che poi affolleranno la prossima stagione cinematografica. Oggi vi parliamo di un thriller, ovvero di The Lovely Bones, che da noi verrà tradotto con Amabili Resti, traduzione abbastanza fedele, a firma di un regista a premio Oscar come Peter Jackson, insomma, quello del Signore degli Anelli per intenderci, ma anche un autore, un vero e proprio grande autore, prima di quella grande trilogia di successo e adesso vediamo come sta dopo. E allora, noi abbiamo già in collegamento la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. E allora Micaela, come dicevo, siamo davanti a un thriller drammatico, genere che Jackson ha già frequentato nella prima parte della sua carriera e che adesso ritrova. Il film uscirà negli Stati Uniti l'11 dicembre e noi lo vedremo il prossimo 29 gennaio. Comunque abbiamo già una data, anche se dobbiamo aspettare un bel po'. Ma prima della trama, di cui ci parlerai fra poco, Micaela, uno sguardo al cast, perché ci sono Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci, insomma una formazione mica da ridere, e la giovane attrice Saoirse Ronan, che poi è la protagonista del film. Insomma, già dalla squadra dicevamo un film che sembra promettere bene. Allora, Micaela, cosa succede in questo nuovo lavoro di Peter Jackson? Allora, diciamo innanzitutto che la storia è tratta da un bestseller, Strappalacrime, di Alice Sebold, che è una scrittrice americana che per le vendite del libro ha superato addirittura uno dei più grandi successi editoriali americani di tutti i tempi, ovvero Via col vento. Sembra incredibile, ma è così. La trama è ambientata negli anni 70, è quella di un adolescente di 14 anni che viene stuprata e fatta a pezzi dall'insospettabile vicino di casa. Una tragedia enorme per la sua famiglia, la classica famiglia della middle class americana, che non si rassegna e si trascina negli anni nel dolore alla ricerca della verità. Ora, nel passo del trailer che sentiremo, sentiremo appunto alcune sequenze di felici momenti familiari, fino a quando Susie, la protagonista, racconta fuori campo il suo omicidio. You are beautiful, Susie Salmon. I was 14 years old when I was murdered. You're the Salmon girl, right? On December 6th, 1973. We didn't find him, Mrs. Salmon. I'm very sorry. Ecco, anche se la polizia ovviamente lavora per scoprire l'autore di tanto orrore, la famiglia fa di tutto per aiutare le indagini, ignara che l'assassino è proprio il vicino della porta accanto. È un crudelissimo Stanley Tucci che peraltro durante le riprese del film ha avuto paura di essere perseguitato dai fan a causa del suo ruolo, che è molto crudele davvero. Ora sentiamo sempre Susie che dal cielo, insomma dal paradiso dove si trova, che Jackson ha dipinto un po' in maniera pop anni 70, e appunto Susie racconta che suo padre è riuscito a mettere insieme tutti i pezzetti del puzzle del suo omicidio, ma senza riuscire a capire la loro connessione. Susie would never go off with a stranger. It had to be someone she knew. I've got a name for you. This is police work. This is what we do. My father had the pieces, but he couldn't make them fit. Tomb in the middle of your house. I waited for justice, but justice did not come. Bene, Micaela, non svegliamo il finale, ovviamente. Diciamo che l'uscita del film era... doveva essere, anzi, in marzo 2009, ma il film è stato volutamente ritardato dalla Paramount per farlo partecipare agli Oscar e quindi uscire in una zona strategica come quella della fine dell'anno, quando poi arrivano tutte le premiazioni cinematografiche. Insomma, potrebbe odorare di statuetta questo nuovo film di Peter Jackson. Staremo a vedere. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. Un saluto ai nostri ascoltatori. Ed eccoci arrivati al momento di parlare di DVD con il nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Abbiamo spazio per un film in più in questo periodo, in queste puntate di agosto. Cominciamo subito con un film che a buon diritto è nella storia del cinema italiano, firma di Alberto Lattuada, protagonista Sofia Loren, si intitola Bianco, Rosso e ascoltiamo la clip. Preghi con me, Padre nostro, ripeta. Padre nostro. Lo vedi che risponde? Per forza. Lei le ha detto di ripetere e lui ripete. Ma cosa fai? Ti raccomandi. Non puoi fare una figura così. Distribuisce Sony Columbia questo film del 1972 che ci permette di riscoprire degli attori all'epoca anche abbastanza impegnati, insomma un po' se vogliamo al di fuori dei loro ruoli classici. E allora Sofia Loren nel ruolo di una suora, ovvero di una donna che in realtà prende i voti in seguito alla morte del suo fidanzato, si trasferisce dalla Libia in Italia e diventa la madre superiore di un ospedale lombardo. Qui conoscerà un giovane comunista che si innamora di lei, ma naturalmente sono due persone assolutamente diverse, anche se destinate a rincontrarsi nuovamente. Il malato in questione è Adriano Celentano, che interpreta questo ruolo, appunto, di questo giovane comunista Annibale Pezzi, molto, molto simpatico, anche se poi si tratta in realtà di una commedia che volge sempre più verso toni drammatici. Il DVD è di qualità molto, molto buona. Abbiamo, oltre alla consueta traccia in italiano, due canali, abbiamo anche addirittura una traccia in inglese per scoprire, insomma, un aspetto diverso, se vogliamo, di un doppiaggio per un film italiano. Purtroppo, come extra, sono disponibili solamente le locandine originali dell'epoca. E noi andiamo avanti con un film sicuramente più recente, che è uscito proprio durante la stagione cinematografica che si è appena conclusa, un film che ha come protagonista uno degli attori così più utilizzati, ammirati soprattutto dal pubblico femminile del nostro presente cinematografico, come Riccardo Scamarcio, e una firma importante che è quella di Costa Gavras alla regia. Parliamo di Verso l'Eden, ascoltiamo la clip. Ti hanno promesso i documenti, eh? Sì. Non li avrai mai. Quindi non rompere le palle. Lavora più piano, chiaro? Non puoi correre come un imbecille, stai qui solo da pochi giorni. Io sono da 10 anni in questa baracca, 10 anni, e ci sarò altri 10. Appena vedono che sei stanco, ti sbattono fuori, è questo che vuoi? Io voglio andare a Lido, a Parigi. Quello non è a Parigi, è a Venezia. Ci sono stato per il mio matrimonio. È di Medusa questo film, che ci racconta la storia di questo giovane clandestino, Elias, che scopriamo in fuga dalla guardia costiera greca, si tuffa in mare da una nave diretta in Italia, giunge su questa spiaggia di un villaggio turistico e la sua meta è quella di Parigi. Vorrebbe raggiungere Parigi e rincontrare un mago illusionista conosciuto su quest'isola. Sarà un viaggio difficile attraverso un'Europa disincantata, dove vivrà appunto un'odissea costellata di imprevedibili incontri alla ricerca sicuramente di una vita migliore. Questa la speranza che nutre in cuore. Il DVD è di ottima qualità. Abbiamo, oltre alla traccia Dolby Digital multicanale in italiano, anche una seconda traccia in francese. Ci sono dei contenuti extra interessanti, c'è un making of, scene tagliate, addirittura un approfondimento sugli effetti visivi, oltre al trailer. Parliamo di Pedro Almodóvar, di autore in autore, in questa rassegna di novità in DVD qui alla Rosa Purpurea. Pedro Almodóvar, Il fiore del mio segreto, 1995, uno dei suoi film forse del periodo migliore, appunto, del regista della Mancia. Ascoltiamo la clip. ¿Está especializada en algún tipo de literatura? Mujeres sobre todo. aventureras, suicidas. ¿Qué opina la Amanda Gris? ¿Cómo sabe que Amanda Gris es una mujer? Nadie ha visto una foto suya. Nadie sabe quién es. ¿Qué? ¿Criticándome? ¿Quieres decirme qué coño tienes que decirme? È di Lucky Red, questo splendido film di Pedro Almodóvar che ci racconta di Leo, questa scrittrice che con lo pseudonimo di Amanda Oris realizza romanzi rosa di successo, e beh, questa donna sprofonda in una crisi che è in realtà doppia, perché sta per essere abbandonata dal marito, peraltro molto amato, e non ne può assolutamente più di scrivere romanzi rosa, tenterà il suicidio, fortunatamente non riesce nell'intento, riuscirà in qualche modo a elaborare il lutto riscoprendo le proprie radici. Se vogliamo un Pedro Almodóvar più limpido, più se vogliamo meno grottesco, più commedia, sempre raccontata con gli splendidi toni di ironia e leggerezza. In questo caso la qualità del DVD è molto buona, non segnaliamo nulla di particolare, doppia traccia italiano e spagnolo, due canali, è presente unicamente il trailer. Curioso il fatto che all'interno di questo film ci sia il ballerino Joaquin Cortés, insomma un'incursione cinematografica in questo caso nel ruolo di attore. E chiudiamo con una serie che sta davvero riscuotendo un enorme successo fra i teenager, soprattutto quelli più piccoli, insomma intorno ai 12-13 anni. Parliamo del mondo di Patty. La particolarità è che per una volta una serie di grande successo non arriva dagli Stati Uniti, anche se l'impianto narrativo è abbastanza americano sotto un certo profilo, ma arriva invece dall'Argentina. C'è tutta una storia di scuola, sullo sfondo di scuola, amicizie, insomma tutto quello che oggi davvero arriva molto molto direttamente ai nostri ragazzi. Il mondo di Patty, quindi, ascoltiamo una breve clip della serie. Grazie infinite, Josie. Sei stata davvero gentile a invitarmi a casa tua appena hai saputo che mia madre partiva. Ma non credo di poter accettare. Perché? Per tutto quello che sta succedendo con Matthias. Lascia che ci parli io con mio fratello. Scusa, ma che gli hanno detto per farlo arrabbiare così? No, no, non voglio metterti in mezzo. Io voglio interessarmene, Patty. Sei mia amica. Carmen, Patty può fermarsi a dormire da me? Primo cofanetto con le prime 16 puntate da parte di Mondo e racconto di questa telenovela molto complessa, dove seguiamo le vicende di Patrizia Castro, questa tredicenne soprannominata Patty, che dal suo paese di campagna nell'Argentina del Sud si trasferisce assieme alla madre Carmen in quel di Buenos Aires perché ha un problema medico. La situazione ovviamente si ingalbuglierà notevolmente perché c'è una donna che vuole sposare il padre della giovane, si ingarbuglierà ulteriormente naturalmente la storia da classica telenovela qual è in effetti, realizzata e prodotta in Argentina a partire dal 2007 e solo dal 2008 giunta in Italia. E allora il primo cofanetto con le prime 16 puntate su 4 DVD di qualità tutto sommato abbastanza buona, ci sono alcuni problemi di compressione, niente di particolarmente gravoso, doppia traccia stereofonica in italiano e in originale spagnolo, esiste un quarto DVD che contiene degli extra con dei videoclip, dei brani musicali in versione karaoke, sequenze di concerti, papere sul set e il trailer originale della serie. Ricordiamo che queste sono le prime 16 puntate delle 170 legate alla prima stagione, tra l'altro il mondo di Patty, la seconda stagione è ne vanta altre 150. Davvero ci vuole tanto spazio e tanto tempo a disposizione poi per collezionarle tutte, chiaramente è ovvio, già questo è un cofanetto di 5 DVD, so che ne usciranno anche degli altri, già è previsto il prossimo di 4 DVD con altre 16 puntate, ma insomma, come potete immaginare, dovete sgomitare nella vostra videoteca per far posto al mondo di Patty. Grazie a Claudio Pofi, che ci ha raccontato le novità in DVD di questo weekend e di questa settimana ferragostana. Appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. A presto, un saluto. E con i DVD, come sempre, chiudiamo la nostra puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana, al prossimo weekend, sabato alle 18, domenica alle 9 per chi ci ascolta in replica, ma tutta la settimana staremo insieme dalle 18 alle 18.30 qui su Radio 24 con il nostro programma quotidiano La Vita in un Film. Un saluto da Franco D'Assisti.